later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli, che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, mentre nella fabbrica di polli regna la più assoluta immobilità, Cappa e Drago alimentano fantasiose leggende metropolitane. Credi a me, appena riusciremo a provare di essere stati presi in giro ed esposti al pubblico televisivo, sì, radiofonico, non so quale altro pubblico, sì, web, eccetera, sì, io giuro che mi farò sentire. E come mi farò sentire? Lo sentirai anche tu, Drago. Mi farò sentire. Vabbè, ma Cappa, ma lascia stare. Non siamo in un reality show. Questa è la nostra vita. Magari fosse tutto uno scherzo. Ah, e sarebbe tutto uno scherzo, secondo te? Sì, uno scherzo. Se fossimo stati ripresi tutto questo tempo, per te sarebbe uno scherzo. Beh, arriverebbe uno con un foglio che ti dice: oh, c'è sta a firma liberatoria, la firmi tu. Tu la firmi ed è tutto a posto, no? È così che vanno le cose, Cappa. Anche in Iraq sarebbe bello che prima o poi spuntasse uno con un foglio che si fa firmare la liberatoria dal primo ministro iracheno e dice: au, c'è sta a firma liberatoria. E dice che la guerra è stata tutta una scusa per fare un gigantesco scherzo a parte. Invece no, nessuno scherzo, no, tutta realtà, nessuno show, solo reality. Dreams, my reality. Cappa. Tu ogni volta che senti la parola reality parti con reality del tempo delle mele. Ah, beh, bien sûr, hein? C'est un film avec Sophie Marceau, hein? Ma lo so, Cappa, non è che mi stai dicendo una novità pazzesca. È un film del 1981. No, ti parlo, il titolo originale c'était La Boom, hein? La Boom. Mais pas on prononce La Boom, hein? Ma no, Cappa, La Boom. La Boom, perché La Boom? Parce que en France on dit La Boom, hein? Oh, e on mange la tartare. Tartara, Boom. Vedi, quando dico tartare mi viene questa cosa. Ho capito, però sembra che parli uno slang di Nizza, di Marsiglia, no? Nizza, Marsiglia, le media. Ho capito, ma vabbè, ma scusa, stai facendo lo scemo così perché ormai sei convinto di essere in un reality e vuoi essere salvato dal televoto facendo il simpatico. Sei e bien sûr, il televoto è per gagnare l'argento contro le italiane charlatana. E je le mange la tarata. Bah. La fabbrica di polli. Buonasera, sono il confessionale della reality show La Fabbrica di Polli, ex confessionale della Cappella di San Gallo. Spiera, da quando girano voci sul fatto che in questa fabbrica si stia in realtà svolgendo un reality show, le mie quotazioni all'interno della fabbrica sono cresciute in modo esponenziale. Spiera, improvvisamente l'umile professione di confessionale è stata rivalutata. I concorrenti del reality verranno a fare le nomination seduti qui sul mio sedile elettrico. Sfera! E le nomination sono la cosa più importante del reality show. E quindi tutta l'attenzione sarà concentrata su di me. Ah, il mio ego gioisce! Sfera! Sfera! In the middle of nowhere, sei messo? No, perché io con le nomination non avrei dubbi, eh? Io sicuramente nomino Drago, eh? Sì, perché io quello lì non l'ho ancora inquadrato. È così che si deve dire, no? Quando si fanno le nomination. Io nomino Drago perché non l'ho ancora inquadrato bene, no? E a volte mi sembra che reciti, a volte mi sembra se stesso. Cioè, che poi magari fuori di qui diventiamo amici per la pelle, no? Però qui, non lo so, si dice così, no? Nomination! Vabbè, tu sei nominato fisso. che quando fanno vedere il cartellone con le nomination, tu sei già lì, anche prima che si cominci. Ma tu non puoi nominare nessuno, tu sei la vittima predestinata, il capro espiatorio. Hai l'automobile rotta, vendila al pollo. Metti la giacca più brutta, fai ridere il pollo. Fai vedere che sei tosto, conosci i tuoi polli. Vuoi andare a dormire presto, vai a letto coi polli. Oui, c'est moi Polossène, il pollo espiatorio, ti servi di me per sembrare serio, un pollo è per sempre, è amico dell'uomo, è più di un diamante, un amante per te. La fabbrica di polli. Joao, e tu chi nomini? Ma io fama vuoi. Pollo. Drago, Kappa, e allora come va? Cos'hai, Polo? Sei strano, cos'hai? In che senso? Perché mi guardi così? E così come, scusa? Hai la faccia di uno che vuole nominarmi. Io? Sì. Ma figurati! Ah, ci conto, Non è che vuoi nominare me, invece? No, no, Kappa, tu sei tranquillo, Polo, nomina Drago! Come? Non ho capito. Polo, nomina Drago! Ecco, hai sentito, Polo. Tarek, boccuccia della verità, dice Polo nomina Drago. Sì, sì, hai sentito che... Se tu nomini me, io nomino te comunque, quindi volevo già nominarti, quindi non è che cambia niente. Ma io... Non capisco niente. Polo, tu sei quello che avrà più nomination comunque, sai perché? E perché non mi avete ancora quadrato bene, No, perché ti abbiamo inquadrato troppo bene. Abbiamo capito che sei solo un voltagabbana, infido e opportunista. E quindi meriti di uscire dallo show. Certo. Ma come sarebbe a dire? Non siamo mica all'oratorio, Che bisogna essere buoni e tutto il resto. Qui vanno bene anche voltagabbana, anzi... Perché? Adesso me lo spieghi, perché? Perché siamo nella fabbrica, no? E che cosa vuol dire? È che qui la morale non vale, no? No, la morale vale sempre, ed è l'unica cosa che vale sempre, Pollo, in ogni luogo e in ogni tempo. Oh. Anche Valzania sarebbe d'accordo, quindi ho ragione. Quindi ha ragione Kappa. Siete completamente fuori strada, Pollastri. No. Voi fate come quello che invece di guardare la luna, guarda il dito che la indica. Tu guarda questo bel dito medio, allora. Pollastri, voi non capite proprio niente, I miei comportamenti in apparenza sono senza coerenza e senza senso morale. E invece? E invece fanno parte di una nuova scala di valori che voi non conoscete ancora. Accidenti. Ma siccome io sono sempre più avanti degli altri, infatti ho messo di essere un polo tanti anni fa, mentre voi siete ancora lì a sperare di essere uomini. Drago, il polo sta vaneggiando, vedi? Avrà forse esagerato con le pilloline. Sì, com'è? Facile, sempre lì, 4-5. Io 5. Sono lucidissimo, Ti prendo tutto. E vi dico anche, se voi continuate a insistere sulla vuotezza di valori della vita nella fabbrica di polli, rischiate di fare la figura dei vecchi tromboni. Quali vecchi tromboni? Sì. Ma cosa dici? Proprio tu che sei il più vecchio di tutti e sei anche il più trombone. Sì, sarò anche più vecchio, ma sicuramente sono meno legato alla tradizione di voi. Vabbè, dai. Perché io non conosco la fedeltà. Non conosco una bandiera, non conosco niente. Sono un essere perfetto per il futuro. Io sono quello che il mondo si aspettava da me. È terribile quello che stai dicendo. Ma qual è terribile? E poi il fatto che tu ti metta a tirare in ballo tutti questi argomenti filosofici, sociologici, al solo fine di non farmi pensare che mi volevi citare nella nomination, mi fa andare ancora più in bestia. Per cui, con grave danno per il televoto, io mi assumo la responsabilità qui in toto, vado in escandescenza, roncolo il pollo in sbattimento, reo di volermi nominare. Che cosa succederà adesso? Il clima velenoso del reality show ammorberà gli idilliaci rapporti esistenti all'interno della fabbrica? Nasceranno amori, odi e gelosie? Lo scoprirete solo ascoltando domani a mezzanotte su Radio 3 il prossimo abbacinante allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude mai. La fabbrica di polli produce, non muoce quasi mai. La fabbrica di polli, un programma di Kappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La fabbrica di polli è trai.it, barlumen.com.